loro reportage. Vento nuovo sul Mediterraneo. Cipro verso la riunificazione? Di Marco Barbonaglia. Nicosia, per i turchi Lefkoşa, è ormai in gran parte una città moderna, percorsa da ampi viali che circondano le antiche mura. All'interno dei bastioni si trova la parte antica, il cuore storico della città, fatto di viuzze, di bazar, di chiese, moschee ed antichi edifici. Qui il clima è mite quasi tutto l'anno, ma Nicosia è famosa soprattutto per un altro motivo. Ad oggi è l'ultima città europea divisa in due. Nella parte sud abita la maggioranza greco-cipriota, mentre nella zona nord vive la minoranza turca. Due comunità divise non da un muro, come a Berlino prima della caduta del blocco sovietico, ma dai 180 km della Green Line tracciata 41 anni fa. Un confine che separa il paese e attraversa appunto la capitale sulla linea del cessate il fuoco stabilito dopo l'intervento militare turco del 1974. La storia degli scontri tra le due comunità in realtà è iniziata quasi subito dopo l'indipendenza dell'isola, ex colonia britannica, ottenuta nel 1960. Attacchi e reazioni portati avanti anche da gruppi paramilitari come per esempio l'organizzazione greca di ispirazione nazionalista chiamata EOKB, fino a quando la situazione degenerò nel luglio del 1974 con il tentativo di colpo di stato militare appoggiato dal regime dei colonnelli, al potere ad Atene in quegli anni, che rovesciò il governo dell'arcivescovo Makarios tentando di insediare un esecutivo che appoggiasse l'annessione dell'isola alla Grecia. La reazione di Ankara fu immediata, l'esercito turco entrò nella parte nord di Cipro spazzando via facilmente le forze militari greco-cipriote ed invadendo o liberando a seconda dei punti di vista in due differenti ondate il 37% circa del territorio. Da allora ci sono state di fatto due Cipro, una greca riconosciuta dalla comunità internazionale e una turca riconosciuta soltanto da Ankara. Una ferita per l'isola e per l'intera Europa che nel 2016 deve ancora fare i conti con questa divisione. Oggi però i tempi potrebbero essere finalmente maturi per una storica svolta, come spiega il professor Erol Kaimak del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali della Eastern Mediterranean University di Cipro. Ci sono buone prospettive per la soluzione del problema di Cipro, perché attualmente i leader di entrambe le parti sembrano essere impegnati, onestamente, nel tentare di risolvere la questione. Ci sono inoltre diverse dinamiche esterne e credo che i greco-ciprioti debbano riconoscere di non poter far leva con efficacia sull'Unione Europea contro la Turchia. Perciò se i leader a livello locale e le comunità internazionali la pensano allo stesso modo e anche la Turchia la pensa allo stesso modo, credo ci siano delle possibilità per Cipro. C'è una relazione complessa tra la Turchia e i turco-ciprioti. Certo che i turco-ciprioti sono subordinati perché non vivono in uno Stato riconosciuto a livello internazionale, non possono relazionarsi con le istituzioni internazionali, non possono ricevere soldi in prestito dalla Banca Mondiale dal momento che non sono parte della comunità internazionale. Perciò non deve sorprendere che la Turchia possa prendere le decisioni in tutta una serie di questioni interne a nord di Cipro, oltre che, da un punto di vista strategico, con l'utilizzo dell'esercito. La situazione nella quale vivono gli abitanti della Repubblica Turca di Cipro del Nord, proclamata ufficialmente il 15 novembre del 1983, è decisamente complicata. I ciprioti che abitano nella parte settentrionale sono di fatto cittadini dell'Unione Europea, come quelli che abitano nella parte meridionale da quando l'isola è entrata a far parte dell'UE, che però non riconosce come entità statale la Repubblica Turca di Cipro del Nord. Tale status, inoltre, non è applicabile ai coloni provenienti dalla Turchia dal 1974 in poi né ai loro discendenti. In sostanza ogni ingresso in questa parte del paese senza autorizzazione del governo greco-cipriota e quindi senza passare dalla parte sud dell'isola viene considerato immigrazione illegale. Per il diritto internazionale, infatti, la Repubblica di Cipro, quella greca per capirci, è la sola e unica entità statale legale e questo comporta problemi di visti, validità dei passaporti, ma anche di proprietà di immobili e terreni. Una situazione difficile, come spiega il ministro degli esteri della Repubblica Turca di Cipro Nord, Emine Çolak. Abbiamo una struttura, Abbiamo un sistema legale, delle regole, abbiamo un parlamento, dei leader, abbiamo dei rappresentanti eletti. Ma per la legge internazionale siamo un punto morto. Uno Stato non riconosciuto e sconosciuto. Non è una situazione attraente per i giovani che vanno all'estero per migliorare la loro istruzione e vogliono sentirsi parte del mondo e vogliono realizzare il massimo del potenziale nelle loro vite. E invece sono bloccati nella metà dell'isola non riconosciuta, nella quale non si ha la possibilità di commerciare, di viaggiare direttamente. Si sentono isolati e in qualche modo puniti, essendo esclusi dal resto del mondo. Risolvere questa situazione è al momento il nostro più importante obiettivo in quanto turchi ciprioti. Oggi però i leader dei due stati sembrano essere finalmente pronti a fare tutto il possibile per trovare una soluzione. Nikos Anastasiades e Mustafa Akinci hanno mostrato importanti segnali di distensione e per rendere più forte il loro messaggio hanno scelto di mostrare anche la loro vicinanza a livello personale, facendosi vedere più volte insieme anche al di fuori degli incontri ufficiali, per esempio in un caffè oppure a teatro, come spiega il presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord, Mustafa Akinci. Negli ultimi 5 mesi, in quanto leader e rappresentante dei turco-ciprioti, ho incontrato più volte il presidente della parte greca dell'isola. Ultimamente abbiamo aumentato il numero dei nostri meeting. Nella seconda parte di novembre abbiamo avuto 2 incontri formali e soltanto in questo mese ci siamo incontrati 6 volte. Entrambi miriamo a raggiungere una soluzione il prima possibile. Se continuiamo di questo passo, con questa determinazione e con questa reciproca comprensione, portando avanti l'idea di creare una federazione come stabilito nell'accordo che abbiamo stipulato l'11 febbraio del 2014, penso che avremo davvero delle concrete possibilità di raggiungere una soluzione. Tra i vari problemi connessi alla riunificazione c'è anche quello di decidere sotto quale forma statale e istituzionale unire le due metà dell'isola. È ancora il presidente Akinci a descrivere quella che pare essere la soluzione migliore e probabilmente anche l'unica disponibile. L'unica soluzione accettabile per entrambe le comunità è una federazione. Perché se i greco-ciprioti volessero un'unica entità statale nella quale vivere, loro come maggioranza e noi come minoranza, noi non lo accetteremmo. Se noi volessimo 2 paesi completamente separati e confederati, questo non sarebbe accettabile per loro. L'unico scenario accettabile per entrambi e che l'intera comunità internazionale appoggia è questo. Non abbiamo nessun'altra opzione e ciò che è reale è anche ciò che è possibile realizzare. What is real is what is possible. Il vento del cambiamento, insomma, sembra soffiare davvero a Cipro. Dopo oltre 40 anni di separazione, le strade deserte che corrono lungo la Green Line, gli edifici spettrali come l'Hotel Ledra Palace, ex albergo di lusso di Nicosia, con i muri segnati dai fori dei proiettili, divenuto quartier generale delle forze militari delle Nazioni Unite, potrebbero diventare finalmente simboli di un passato da lasciarsi alle spalle. Un ottimismo che si respira nel paese e che è evidente nelle parole del ministro degli esteri Emine Çolak. Sono ottimista perché sembrano essere in movimento molti fattori che vanno verso una soluzione. I 3 poteri di garanzia stanno tutti appoggiando una soluzione. I leader delle 2 parti dell'isola, le 2 comunità, hanno ora presidenti eletti che hanno una visione comune per una soluzione. Io penso che tutti abbiamo bisogno di vedere un lunghissimo problema senza fine risolto. Così potremo guardare avanti e avere stabilità. Penso che le violenze e le guerre in questa regione spaventino tutti noi e nessuno voglia una situazione che possa evolvere in un conflitto. Le Nazioni Unite svolgono una missione molto importante qui e incoraggiano una soluzione. Ed è giunta l'ora di trovarla. I problemi non possono durare per sempre. Ci deve essere una fine e penso che ogni cosa sia al posto giusto e che questo sia il momento giusto. So I think everything is right. To the magic of the moment on riuscirà davvero Cipro a cambiare il suo futuro, a riunificarsi e a lasciare che le ferite del passato finalmente si possano rimarginare? Gli ostacoli sono ancora molti e il fattore tempo è determinante. Per questo le elezioni a Cipro Sud del prossimo maggio saranno un momento delicato e importantissimo. O ci si muove prima oppure bisognerà vedere se Anastasiades verrà riconfermato. È opinione condivisa da molti nel nord di Cipro che se anche questa volta si dovesse fallire a pochi passi dalla meta, la delusione sarebbe così cocente da rendere difficile per molto tempo qualsiasi nuovo serio tentativo di avvicinamento. Anche per questo la riunificazione è ora la sfida più grande per entrambe le parti dell'isola. Il percorso è stato tracciato e il traguardo, che pure è ancora difficile da raggiungere, non è mai stato così vicino. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.